18 minuti e 5 secondi, la terza parte di 24 mattino. È giovedì 10 settembre. E vi aspettiamo come sempre al 349-238-6666, i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, gli sms, i messaggi su WhatsApp, l'800-2400-24, su tutto quello che volete. Tra poco parleremo, daremo voce al no, ieri abbiamo dato voce al sì, al referendum, con la responsabile riforma del PD Roberta Pinotti, oggi daremo voce appunto al no con Giorgio Mulè di Forza Italia e poi avremo ospite Enzo Amendola, il ministro degli affari europei, che coordina il comitato che si occupa di vagliare i piani dei ministeri e degli enti locali per il recovery plan, per ricevere i fondi europei, per farla molto semplice. Abbiamo un bel po' di domande per lui, Intanto saluto Paolo Mieli per il nostro appuntamento quotidiano. Paolo, buongiorno. Eccoci qua. Paolo, io vorrei partire però dalla campagna per le regionali, che ieri si è arricchita, per così dire, di un brutto episodio. È quello che è successo a Matteo Salvini, del quale possiamo sentire l'audio, direi. Aspetta, non voglio più. Io ti È una donna di 30 anni, di origine congolese, che mentre Matteo Salvini era a Pontassieve, in Toscana, in campagna elettorale, l'ha aggredito strappandogli la camicia, strappandogli i due rosari. A Salvini non è successo niente, ha detto anche di non essersi spaventato, di essersi un po' irritato, infastidito, ma di non essersi spaventato. E però è un segno strano, Paolo, perché in realtà la campagna elettorale finora non è stata caratterizzata da toni particolarmente accesi, Sì, guarda, fai benissimo, scusami, ad aprire su questa questione di Salvini aggredito in Toscana, non perché sia un fatto, come tu hai sottolineato, così particolarmente eclatante, ma perché, ricordiamolo, la Toscana è una delle regioni, è la regione in cui si decidono queste elezioni, perché se la Toscana dovesse passare alla destra sarebbero guai per la maggioranza, sarebbero guai anche per il governo. In sé, ripeto, il fatto non è eclatante, anche se i giornali di destra, Libero, Il Giornale, La Verità, aprono con toni indignati su questa aggressione. Che dire, ha fatto bene Salvini a minimizzare, insomma, in qualche modo questa aggressione, e forse proprio per esorcizzare questo tipo di atti, forse la voce di solidarietà che si leva, a volte ipocrita in questi casi, da parte degli avversari politici, avrebbe dovuto essere un po' più alta. Secondo me avrebbero dovuto farlo sentire di più, perché insomma è bene che queste cose restino isolate. Un piccolo fatto di cui dopodomani non ci si ricorderà più, e non incoraggiare nei confronti dell'avversario politico atti di questo genere. Io penso che, ripeto, mi auguro che fra pochi giorni, anzi domani mattina, non se ne parli più, e non è una cosa di particolare gravità, ha già strappato la camicia e la corona del rosario. Però, insomma, è sempre bene non chiudere gli occhi. Un po' più di solidarietà, dici, dai vari ambienti politici ci sarebbe stata, secondo te? Una stigmatizzazione di dire: guardate, fate contro Salvini tutte le manifestazioni che volete, mettete cartelli, come fu fatto anche al tempo delle elezioni europee, però insomma non passate a via di fatto. Sì. C'è tutto, i nostri ascoltatori, ma non solo, come avrai visto anche sui social, ci si è divisi molto perché c'è un pezzo di opinione pubblica, quella più lontana da Matteo Salvini, che come un ascoltatore da Reggio Calabria ci scrive: chi semina vento raccoglie tempesta. Altri ci dicono: sì, sarà pur vero che questa campagna elettorale aveva toni poco accesi, però Salvini è da anni in campagna elettorale con toni accesi, cioè tutto il mondo contro Salvini, in questo senso dice, sembra quasi dire se l'è meritata. Tutto vero, ma sempre quando succedono queste cose, addirittura aggressioni ben più gravi che portano omicidi, c'è qualcuno sui social che dice se l'è meritata. Io, se dal mio piccolo, dal nostro piccolo, il se l'è meritata non è mai un buon criterio. E così, ripeto, facciamo in modo che anche in questo caso non sia passato sotto silenzio e che non ci sia qualcuno di qui al 20 settembre che si senta incoraggiato a muoversi con queste modalità. Quanto al fatto che la persona sia di pelle nera, questo raddoppia questo mio invito, nel senso che, diciamolo in modo forte, non tutti, anzi nessuno di questi migranti che sono arrivati, naturalizzati italiani, alcuni, si comporta in questo modo, quasi nessuno, e speriamo che questa cosa non resti impressa nella memoria, insomma che le cose non vadano in modo tale per cui questo episodio resta impresso nella memoria. Ripeto, è un piccolo fatto marginale, però insomma, voltiamo pagina. Sì, voltiamo pagina e ti porto, c'è una questione sulla quale ogni tanto qualche ascoltatore ci richiama e ci dice: ma che fine ha fatto la vicenda del CSM e della riforma del CSM, tutto il caso Palamara, al momento tutto sotto... va un po' sotto traccia, se ne occupa oggi, se non vado errato, La Verità, no? Ma anche tutti, anche il Corriere della Sera, perché cosa è successo? Che Marco Mancinetti, un altro membro del Consiglio Superiore della Magistratura, tra l'altro appartiene alla corrente Unicoste, la stessa corrente di Luca Palamara, è stato costretto a presentare le nuove dimissioni perché erano emerse nuove indiscrezioni, nuovi verbali. Anche lì sempre noi diciamo, ecco, adesso arriva il momento, ogni volta che questa vicenda Palamara si riaffaccia, perché lì ci sono tonnellate di intercettazioni, diciamo adesso si fa la riforma, non sarà mai più così, alti lamenti, alti lai, e poi non se ne fa niente. Il caso in sé è come il caso della congolese di Salvini, casi marginali, giusto? Oggi seguiamo la via di prendere tanti piccoli casi apparentemente marginali, ma anche qui sul Consiglio Superiore della Magistratura la riforma, il rendere impossibile che casi come quello di Palamara, che trattava con i politici le nomine dei principali giudici nelle principali postazioni italiane, casi come questi non si ripetano, poi tutto viene lasciato come era. Grandi lamenti, sarebbe forse il momento, proprio perché questo è un piccolo caso, di esigere che si proceda, dai, facciamola questa riforma del CSM. Sì. A proposito dei magistrati, la Presidente della Corte Costituzionale esce, cioè finisce il suo mandato, e molto breve, 8 mesi, e ne arriva un'altra sempre per un periodo molto breve, da quel che abbiamo capito, Paolo. Dunque, innanzitutto Marta Cartabia se ne va, è stata una delle migliori Presidente della Corte Costituzionale, già prima, perché era brava, perché già prima era stata vicepresidente, quindi era preparata a questo compito, anche se, hai perfettamente ragione, è stato brevissimo il suo mandato. E adesso il suo mandato come presidente, adesso addirittura il principale candidato è un suo vice che si chiama Mario Morelli, di cui io nulla so, penso che sia una persona eccellente, eccezionale, ma che se venisse eletto resterebbe in carica fino all'11 dicembre, cioè contate un po', ottobre, novembre, diciamo, tre mesi. Perché fanno, la Corte Costituzionale fa da anni, da decenni questo giochetto di nominare un giudice che sta per scadere, perché poi quello rimarrà a vita ex presidente della Corte Costituzionale con tutte le guarentigie, le possibili consulenze, eccetera eccetera del caso, certo. loro sostengono che questo metodo sottolinea la collegialità, che uno vale l'altro. Sarà, io penso che un presidente della Corte Costituzionale dovrebbe rimanere in carica almeno per il mandato previsto, 3 anni, sì. E allora o si sceglie un'altra via, oppure io mi auguro che, come capitò, se non erro, Sabino Cassese si trovò nelle stesse condizioni e rinunciò, se no grazie, sì. Non lo io faccio, presidente, no, della Corte Costituzionale, rinuncio a quelle che tu hai definito le guarentigie, sì, per il presidente, non lo faccio. E sarebbe una bella notizia, ripeto, io penso che non so nulla di Mario Morelli, penso che sia il migliore possibile, forse sulla carta, ma sarebbe stato il migliore possibile se avesse avuto davanti a sé almeno 2 o 3 anni. Sì. Invece 3 mesi. Che rimane pochi 3 mesi, mi sembra veramente uno scandalo. Voglio chiudere, Paolo, abbiamo ancora poco, con la questione dell'Academy, gli Oscar, la questione degli Oscar. La questione degli Oscar qual è? Lo abbiamo raccontato prima, che a partire dal 2024 gli Oscar, per candidarsi a miglior film, bisognerà rispettare dei criteri di inclusione, ci dovranno essere minoranze etniche all'interno della pellicola, almeno un attore a scelta fra queste categorie: asiatico, ispanico, nero non americano, afroamericano, nativo americano, abitante dell'Alaska, medio orientale, nordafricano, hawaiano o un rappresentante delle isole del Pacifico. E medesime regole dovranno essere rispettate per lo staff. Ti faccio sentire l'opinione di uno dei nostri ascoltatori. Vai, Peter, vai. Il fascismo obbligava a usare attori italiani, parlare la lingua italiana, strumentazione italiana. L'Academy costringe ad usare una certa quantità di attori con certi orientamenti sessuali, di certe religioni, di certe etnie. Non avete ancora capito? Il problema non è chi impone cosa impone. Il problema è l'imposizione. L'obbligo non è libertà. Che venga da sopra, da sotto, da destra o da sinistra, l'obbligo non è libertà. Com'è? Che ti dice questa? Ti piace questo ascoltatore? Certo, sono assolutamente d'accordo, anche perché ricordiamolo meglio che nei ruoli secondari, oltre alle cose che tu hai appena ricordato, nei ruoli secondari è indispensabile scritturare, oltre a un appartamento a un qualunque tipo di minoranza, almeno una scelta tra un interprete LGBTQ, che significa lesbica, gay, oppure affetto da disabilità, e gli studios saranno tenuti ad assumere almeno il 30% del loro staff secondo questo stesso criterio, anche per quanto riguarda ad esempio gli uffici marketing. Giustamente Antonio Monda su Repubblica dice: il Padrino non sarebbe mai passato, sì. Ci voleva uno dell'Alaska per fare perché il film fosse legittimo. A voi parrà una cosa da ridere, una cosa, sì, così, per farsi qualche risata alla fine di una rassegna stampa. Non è così, non è così, è un segno dei tempi. Tra l'altro la data fissata, come tu hai ricordato, il 2024 è ravvicinata. Queste questioni di genere, l'hai visto anche sull'affare del Festival, sì, della Bellezza di Verona. Anche oggi tempesta, festa della bellezza, Sgarbi dice: lascio il mio posto a mia sorella, sì. Elisabetta Sgarbi, Michele Serra che si dice, giustifica, no, io sulla Repubblica, ci vado lo stesso perché devo intervistare pubblicamente Gianni Morandi, sì, perché se no poi direbbero che non ci sono andato per quieto vivere, per adeguarmi ai tempi. Guardate, anche qui queste questioni sembrano marginali, però non sono più marginali, non sono più marginali, sono un segno dei tempi, e sono un grave segno dei tempi, che poi hanno un legame sottile con le cose da cui abbiamo aperto. Serve un po' più di coraggio nell'affrontarle. Grazie anche per oggi al nostro Paolo Mieli. Io non so, ce lo chiede un ascoltatore, se ci saranno quote per i molisani. Non è male, non è male. Mia madre è molisana, quindi magari ci rientro. Può darsi, può darsi. Una pausa, ci ritroviamo tra poco. Paolo, a domani, eh. Ci sentiamo dopo il GR. Grazie a voi. Ciao, buona Grazie. Giornata. State ascoltando un programma offerto da Il lavoro cambia. Cambiamolo in meglio. Inaz.it. Mattino. Le 8:36 minuti e 47 secondi, le vostre voci se volete all'800 24 00 24. Tra l'altro tra poco parleremo di Recovery Plan e della riunione di ieri del comitato che se ne occupa. Ma prima diamo spazio anche oggi al referendum per il taglio dei parlamentari. Ieri, come sapete, come sanno gli ascoltatori, abbiamo ospitato le ragioni del sì e anche il tema delle tensioni all'interno del Partito Democratico per questo sì, con Roberta Pinotti, la responsabile riforma del partito. Oggi sentiamo le ragioni del no con Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia, che tra l'altro è coordinatore dei gruppi a Senato e Camera. Mulè, buongiorno, benvenuto, eccoci. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Allora, è una posizione quella all'interno del vostro partito, anche là ci sono delle, vogliamo chiamarle divisioni, delle divergenze di opinioni, come le vogliamo chiamare, Mulè? Ma in politichese si chiamano sensibilità. Sensibilità diverse, bello, bello, mi piace, mi piace. E lei è per il no, come mai? Io ho una diversa sensibilità rispetto ad altri colleghi del partito ed è fondata su ragioni, di merito, su ragioni, come dire, fondanti. La prima grande bandiera del sì era il risparmio, bandiera adesso che stanno ammainando per un motivo banale: hanno raccontato bugie, si risparmiano 500 milioni, si risparmiano 100 milioni, poi gratti gratti vedi che il risparmio si riduce a 57 milioni, cifra assolutamente non da mettere sotto il tappeto. Rispettabile comunque, assolutamente Mulè, come sì, cifra. Assolutamente, da confrontare con quello che è la spesa pubblica. Nessuno meglio di chi ascolta Radio 24 sa che il nostro paese ha una spesa pubblica di oltre 800 miliardi di euro, che è aggredibile per almeno il 20% di quanto è stata aggredita questa spesa indenne. Negli ultimi governi, indenne, spending review, mani di forbice, Jack lo squartatore, nulla. Il risparmio è ridicolo, è un caffè all'anno per ogni cittadino. Si dice bisogna risparmiare, perché poi se ne ha un effetto positivo sui lavori del Parlamento, sulla produttività. Altra panzana incredibile, perché con i 400 deputati e 200 senatori non solo non c'è nessun aumento di produttività, al contrario c'è un aggravamento, perché Senato e Camera si basano su regolamenti che sono borbonici per la loro architettura, per cui per fare una legge è più facile scalare l'Everest in costume piuttosto che fare una legge alla Camera e al Senato, per dei regolamenti. Però che per sono quelli, fuori però dal per tempo. Quelli, Mulè, per quelli è prevista una modifica. No. I cittadini vanno a votare e dicono tagli parlamentari. No, sì, i cittadini sì, però è previsto che si discutano delle modifiche dei regolamenti parlamentari, no? Ma io non ho alcuna fiducia né nei 5 Stelle né nei Dem, che hanno barattato il loro sì al referendum in cambio di una promessa a discutere la questione dei regolamenti. Guardate, in piccolo è come la questione della prescrizione, che doveva essere fatta di pari passo con la modifica della legge penale. Qualcuno ha notizia di un codice penale che è stato, di procedura penale che è stato rivisto? Qualcuno ha notizia dopo oltre un anno di un decreto attuativo di quella legge? A me non pare, non ho alcuna fiducia e non consegno le chiavi della democrazia e della Costituzione a un accrocchio di maggioranza che non ha alcun tipo di comunanza né di valori, né di idee, né di identità. Non sulla Costituzione, non sulla legge delle leggi. Detta così si fatica a capire la sensibilità diversa di alcuni suoi colleghi, Mulè. Secondo me sono sensibilità che sono già, come dire, in dirittura d'arrivo verso il no. Il presidente Berlusconi in questo è stato chiaro, bollando come demagogica una riforma che non aiuta in nulla la nostra democrazia, essendo strampalata, scombiccherata, non avendo nessuna forma di equilibrio, mettendo in crisi la rappresentanza e la rappresentatività dei territori, l'effettività e la capacità del Parlamento. Io penso che di qui a breve, a parte la libertà di coscienza lasciata ai nostri elettori, anche altri parlamentari confluiranno nel fronte del no. L'accusa, un ascoltatore la mette giù brutale al 349-238-6666, ci scrive come lotta la casta, e il retropensiero è questo: la realtà è che molti di quelli che sono per il no temono, gliela metto proprio cattiva Mulè, temono di non essere rieletti al prossimo giro. Guardi, parla con un parlamentare che è espressione di un gruppo parlamentare che al suo interno ha fior di professionisti, di imprenditori che hanno concepito la politica come missione, l'ultimo dei loro problemi, proprio l'ultimo, è quello di essere rieletti potendo contare, grazie a Dio, su professionalità e redditi che gli garantivano una vita ben superiore a quella del Parlamento. È un'accusa giusta da muovere ai grillini. Loro sì che hanno, come dire, il terrore di non essere rieletti, tanto che prolungano questa legislatura ad libitum, e noi diciamo tagliamoli i parlamentari, tagliamoli anche domani mattina, purché venga fatta all'interno di una cornice istituzionale, costituzionale, coerente, e non alla branca leone come viene fatta adesso. Si può trovare una convergenza? L'altro giorno Dario Franceschini ha lanciato un appello dalle colonne della stampa, anzi ieri se non vado errato, dicendo facciamo le riforme insieme, passato il referendum, facciamo le riforme insieme. Si può trovare una convergenza, Mulè, secondo lei, per un progetto di riforma complessivo? Ma guardi, finora l'unica condizione che il PD come gli altri mettono sulle riforme è che si faccia una condizione che siano le loro riforme. Ecco, se la precondizione è che siano alle loro condizioni, ovviamente non c'è possibilità di dialogo. Lo vedete in piccolo, non toccando la Costituzione, ma temi assai importanti su quello che succede sul recovery fund, sul dialogo che non c'è mai stato con il governo che a parole dice di voler parlare con l'opposizione, nei fatti non ci ha convocato dopo gli stati generali, non ci ha ascoltato dopo ogni decreto, non ha accolto nessuna delle 840 proposte, le ho contate, che abbiamo fatto noi di Forza Italia, ci ha respinto circa 4.000 emendamenti, a parole, nei proclami, sono tutti bravi, nella filosofia sono bravissimi. Quando poi si tratta di dare seguito alle loro parole, naufragano nella palude dell'immobilismo e della conservazione del potere. Detto ciò, se ci fosse una possibilità di arrivare ad un dialogo sulle riforme, quello si può fare. Voi, siete, voi siete aperti, no? Su questo non c'è un ufficio e le nostre porte sono spalancate se solo bussassero. Il problema è che non bussano, perché sanno che se bussano devono misurarsi con una cosa però brutale, che è il confronto democratico dal quale fuggono, essendo, come ripeto, prigionieri PD e 5 Stelle della loro inconsistenza dal punto di vista della comunità, dei valori e di ciò che li accomuna. Ultima domanda, Mulè, l'ha sentito Berlusconi? Come sta? No, sentito no, diciamo che abbiamo avuto un dialogo che è stato tra mediato, ecco, è stato mediato. Per interposta persona. Per interposta persona, l'ho sentito pochi giorni prima, lo sento bene, ancora ieri alla riunione dei parlamentari, dei nostri deputati è intervenuto. Combattivo come sempre, straordinariamente attivo sia sul fronte politico che su quello sanitario della prevenzione, è il leone che nessun virus potrà abbattere ed è una persona che ancora una volta dimostra che si può vincere qualsiasi battaglia, nel suo caso, come dire, li ha vinti in tutti i campi e vincerà certamente di qua a qualche giorno, uscirà dall'ospedale. Grazie Giorgio Mulè, buona giornata di Forza Italia, grazie per essere stato con noi. Domenico da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Rapido, Senta, no, è a proposito del referendum. Sì, però le chiedo di essere io rapido. Io voterò sì e le spiego velocissimamente. Veloce, perché. Veloce. Perché, mi scusi, io sono un po' emozionato, non sono solito parlare per radio. Coraggio Domenico, faccia come se fossimo tra amici, siamo noi due, lei mi dice eccoci per qua. Me è un po' come nel condominio, con la differenza che i condomini hanno un interesse comune e invece là probabilmente non è proprio così in Parlamento. Questa è la prima cosa, la prima osservazione. E quindi lei dice ridurla, ridurre i parlamentari fa sì. Ma non è proprio così, perché i partiti hanno la legge di partito, l'ordine, come lo chiamano, adesso mi sfugge la disciplina di partito, che gli dice di votare come si decide quei quattro gatti che decidono per tutti, va bene, c'è un direttorio che decide la linea del partito e quindi tutti quanti si allineano per disciplina. Non sempre, non sempre, non sempre. Che cavolo serve? A cosa serve? Vabbè, Domenico, sulla base di questo principio, perché non c'è, in realtà non esiste il vincolo di mandato, caro Domenico, perché se no sulla base di questo principio prendiamo solamente un parlamentare per ogni, questo non lo dico, non è una presa di posizione sul referendum, però sulla base di questo principio prendiamo un parlamentare per ogni partito e abbiamo chiuso, e così non funziona, cioè la democrazia non funziona in questo modo. Buongiorno Enzo Amendola, ministro degli affari europei, eccoci, come stai? Buongiorno, tutto bene? Bene. Allora, ieri avete riunito il comitato, questo comitato che lei presiede, che si occupa appunto di vagliare. Lo preside il presidente, diciamo, lei lo coordina, coordinatore del comitato che si occupa del recovery plan, che è il piano per ottenere quei famosi, o meglio spendere, ottenere e spendere quei famosi 209 miliardi che dovrebbero arrivare da Bruxelles. Siamo in ritardo, Amendola? No, assolutamente no, stiamo seguendo il cronoprogramma della Commissione. La Commissione, dopo che abbiamo firmato il famoso accordo il 21 luglio, abbiamo programmato tutto agosto perché avremo le risorse del recovery, 209 miliardi, e avremo anche risorse importanti dal bilancio europeo 21-27, tante risorse anche lì che servono per la ripresa, ma soprattutto per mettere il nostro paese e l'Europa di nuovo in carreggiata. Tutto agosto la Commissione aprirà la consultazione informale dal 15 ottobre, proseguirà per un paio di mesi e poi da gennaio la Commissione chiederà il programma ufficiale con tutte le azioni, cioè tutti i progetti, perché questa volta i progetti devono essere chiari, costi concreti, cronoprogrammi precisi, e tutto deve essere organizzato tra gennaio prossimo e il 2026. E qua è il grande tema, Amendola, che è il grande tema italiano, che non è tanto il fare i progetti, non è tanto l'impegnare i soldi, quanto poi mettere in atto e rispettare i tempi, ed è la cosa che temiamo tutti quanti. Ma guardi, io non nascondo il passato, noi abbiamo una grande occasione, perché tra il piano per la ripresa, il recovery e il bilancio 21-27, per la prima volta nella sua storia l'Italia, che è un contribuente all'Unione Europea, sarà beneficiario di tutte le risorse che riceve, e sarebbe uno spreco infinito perdere tempo, ritardare l'attuazione dei programmi e sprecare denaro. Quindi per questo siamo partiti subito agosto con tutti i ministeri, in concertando con le regioni, con i comuni, continuerà questa concertazione. Adesso il Parlamento anch'esso avrà la possibilità di non solo di discutere, ma di indirizzare questo lavoro. È tutto una mobilitazione per il Paese. Sono risorse non per il governo, ma per fare l'Italia più veloce, più verde, più giusta, io direi, nei prossimi anni. Quindi è una mobilitazione che dobbiamo fare tutti insieme. Noi, dopo quell'accordo del 21 luglio, abbiamo offerto come governo una grande possibilità, e credo che tutti debbano essere allertati in questa direzione. Teme un po' un assalto alla diligenza in stile manovra, ed è quello che ha verificato nei progetti che le sono arrivati sul tavolo, Amendola? No, ho sentito tante cose sbagliate, svuota cassetti, progetti vecchi. Quando si parla di transizione green e transizione digitale, stiamo parlando del futuro, progetti che devono essere fatti adesso, che 5 anni questi grandi temi della rivoluzione tecnologica non esistevano, quindi è tutta una proiezione verso il futuro. Nessun assalto alla diligenza, dice Amendola. No, perché quando si lavora su progetti concreti, cioè su indirizzi concreti, che sono quelli che poi abbiamo deciso il 21 luglio nell'accordo, perché l'accordo non è solo sulle risorse, ma anche su quello che vogliamo fare dell'Europa e dell'Italia nei prossimi anni, non c'è un assalto alla diligenza, c'è come individuare in quei grandi settori verde, digitale, coesione sociale, azioni concrete. Se me lo permette, anche partendo dai ritardi dell'Italia, guardiamo alcuni esempi. Le donne al lavoro hanno un tasso di 10 punti inferiore a quello dell'Europa, sprechiamo il 50% in alcune regioni dell'acqua pubblica. Ci sono cioè tante grandi vicende che non abbiamo potuto affrontare per questioni di cassa negli anni passati, che adesso ci danno la possibilità di fare investimenti pubblici e sostenere soprattutto il sistema produttivo privato per rilanciarsi e per soprattutto per guardare al futuro. L'Italia pre-Covid aveva livelli di competitività e di produttività molto bassa, non ce lo nascondiamo, quindi dobbiamo riprenderci da questa crisi, ma soprattutto fare questo paese un po' più forte per affrontare il futuro. Allora, io so che Ministro, lei tende a evitare di parlare di singoli progetti, di singole idee, però è una domanda che le vorrei fare ed è questa. Oggi leggo dal Sole 24 Ore, nel pezzo di Gianni Trovati, che tra i criteri che sono richiesti c'è di evitare progetti storici che hanno noti problemi di attuazione difficilmente risolvibili nel medio termine, il che ci fa pensare che con i quattrini del recovery è difficile pensare al ponte sullo stretto. Ma guardi, noi nelle linee guida abbiamo indicato anche i criteri, perché nella consultazione che faremo con Parlamento, enti locali, con tutti gli attori, deve essere chiaro che tutti i fondi vanno impegnati dal 2021 al 2023 e spesi entro il 2026. Quindi devono avere una realizzazione che sia rapida e che sia con cronoprogrammi molto chiari, altrimenti perdiamo le risorse e non mi sembrerebbe una cosa molto intelligente. Quindi tutto quello che noi faremo deve essere tarato su un cronoprogramma che sia visibile ai cittadini. Quindi è difficile che ci rientri un progetto di quel genere così contestato e così difficile da realizzare? Io non parlo mai dei progetti perché sono coordino le procedure, ogni ministero. Poi il CIAE di nuovo, finite tutte queste consultazioni anche con l'Unione Europea, sceglierà la strada migliore, però è evidente che tutti i progetti devono avere tempi di realizzazione che non sono un'opzione, devono essere definiti e quindi tutto deve entrare in quel cronoprogramma. Tutto deve entrare in quel cronoprogramma che appunto dovrà essere un cronoprogramma molto molto ben definito, Amendola. Sì. Mi lasci dire, sì, non sono solo investimenti, sono anche riforme, sì, perché noi per esempio su pubblica amministrazione e giustizia, riforma del mercato del lavoro, sono questioni che a livello europeo noi dobbiamo dare risposte concrete, quindi è un cronoprogramma per la spesa e per gli investimenti, ma anche per le riforme da fare che servono al paese. Quindi quei fondi possono servire appunto anche per riformare la giustizia e riformare il mercato del lavoro? E fare della pubblica amministrazione anche grazie alla digitalizzazione, alla tecnologia, anche un servizio ai cittadini e alle imprese che sia rivoluzionario rispetto ai tempi, alle difficoltà che ci sono oggi. Quindi sono grandi innovazioni. Pensi solo alla sanità, sì, che cosa significa investire in telemedicina, che cosa significa investire in tecnologia. È un cambiamento epocale. Sì. Noi dobbiamo essere, non dico ottimisti, ma realisti, che questa è la strada giusta. L'ha tirata fuori lei la sanità. Pensa che dopo le regionali si tornerà a parlare più concretamente dell'utilizzo del fondo salva stati, al di là di quella che è la posizione del suo partito, ormai la conosciamo, l'ha espressa il segretario Nicola Zingaretti, ha detto io lo prenderei, però pensa che dopo le regionali sia politicamente più potabile anche per il Movimento 5 Stelle parlare esplicitamente di fondo salva stati? Guardi, io non sono molto concreto, io lavoro su delle filiere, recovery, la programmazione del bilancio 21-27, il MES, come decidemmo a livello europeo con le reti di emergenza, le famose reti di emergenza, è attivato, noi abbiamo scelto per esempio di attingere subito al fondo SURE per la disoccupazione, sì, 27 miliardi, sì, che servono per coprire i costi della cassa integrazione e di altri benefit per i lavoratori in difficoltà. Il MES è un meccanismo attivato, il governo credo nel percorso delle prossime settimane, come ha detto già il Premier e il Ministro Gualtieri, è un tema che si affronterà. Che si affronterà, va bene, rimaniamo però, così. Conosciamo la realtà. Sì, la realtà anche politica, la realtà politica del Parlamento. Certo. Un'opposizione anche che è molto vibrante contro, sì, questo tema, sono scelte importanti per, sì, il Paese, anzi me lo lasci dire, anche se siamo in campagna elettorale. sul recovery, sul bilancio prossimo. Spero che l'opposizione, il Parlamento partecipi, non solo per un'opposizione di principio. Dobbiamo veramente chiudere. Grazie Enzo Amendola, Ministro degli Affari Europei, per essere stato con noi. GR24, ci risentiamo domani mattina alle 6:30. Ciao.